24. La storia. 3 ottobre del 1990, dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, la divisione di Berlino tra sovietici e alleati, la costruzione del muro, la guerra fredda e 45 anni di divisione, la Germania è di nuovo unita. A guidare l'unificazione tedesca è il cancelliere Helmut Kohl, cancelliere della Germania Ovest dall'82 al 90 e poi dalla Germania Unita, cioè dal 90 al 98, per 25 anni a capo del Partito Cristiano Democratico Tedesco, cofondatore dell'Unione Europea e fondatore della Germania Unita, protagonista assoluto nel momento del crollo del muro di Berlino e del sistema della guerra fredda. Secondo Bill Clinton, Helmut Kohl è probabilmente il politico che ha influenzato di più la politica europea del XX secolo. Ma Kohl è stato anche un politico discusso e travolto da accuse di corruzione per quello che in Germania chiamavano il sistema Kohl, una fitta rete di contatti tra politica, impresa e finanza. A Mix 24 con Marina Milone ripercorriamo la storia di questo gigante della politica con una sua lunga intervista. Helmut Josef Michael Kohl nasce il 3 aprile 1930. È dunque troppo giovane per prendere parte alla guerra, ma grande abbastanza da assistere alla distruzione completa della sua città natale, Ludwigshafen, sotto le 800.000 bombe sganciate dagli aerei alleati. Il trauma della Seconda Guerra Mondiale lo segnerà per sempre. Anzi, sarà l'incentivo che lo spingerà a realizzare il sogno di un'Europa unita, libera dai conflitti. Kohl concepisce la politica come un cammino verso le riforme. Ancora studente di diritto, aderisce all'Unione Cristiano-Democratica, partito conservatore di recente istituzione, salito al potere nella Germania del dopoguerra. L'ascesa del giovane Kohl è rapida. Nel 1953, a soli 23 anni, entra a far parte del comitato direttivo della sezione nazionale del partito della sua città natale. La Germania Ovest è suddivisa in 11 Länder, tra cui quello di Berlino Ovest. Ogni Land è dotato della propria amministrazione e del proprio primo ministro, che lo rappresenta presso il governo federale, il Bundestag di Bonn. Da subito Helmut Kohl ambisce alle cariche più alte del suo stato di origine, la Renania-Palatinato. Punta a diventare presidente della CDU e primo ministro. In nessun'altra regione della Germania, neanche all'epoca del Terzo Reich, è esistita una generazione che abbia subito le conseguenze del nazionalismo più bieco quanto la generazione dei nostri genitori nati qui, sulle rive del Reno. Sempre allerta potrebbe essere la sintesi dell'intera carriera di Helmut Kohl. Sin dall'inizio egli impara ad attendere l'occasione propizia. Chiedo al deputato Kohl se accetta l'incarico. Nello stesso anno, Kohl sposa la sua fidanzata di sempre, Hannelore Renner, dalla quale avrà due figli, Peter e Walter. Ma le nuove responsabilità politiche creano tensioni in famiglia. Quando si occupa una carica così importante, c'è sempre qualcuno su cui ricade il peso di questa scelta e quasi sempre è la famiglia a soffrirne di più. Mia moglie mi rimproverava sempre. Tu fai grandi discorsi sulla politica familiare, ma sono sempre le donne che si occupano delle faccende domestiche. Mentre Kohl dedica tutto se stesso alla carriera politica, la moglie si divide tra il ruolo di madre e quello di first lady del governo regionale. Le interessa il lavoro di suo marito? Riesce a partecipare ai suoi impegni? Sì, mi interessa. Credo che una moglie debba interessarsi al lavoro del marito, altrimenti non è possibile stabilire una convivenza soddisfacente anche dal punto di vista psicologico. Man mano che Kohl fa carriera, la giovane e brillante coppia inizia a frequentare gli ambienti più prestigiosi della società. È il 1969. I cristiano-democratici sono al potere da oltre 20 anni. Kohl partecipa alla campagna elettorale nella lista del cancelliere Kurt Georg Kiesinger. Ma Kiesinger perde le elezioni e il CDU deve rinunciare alla guida del paese. Se il suo partito non tornerà al potere, il sogno di Kohl di diventare cancelliere è destinato a infrangersi. Kohl sceglie allora una tattica di attesa. Inizia a costruire una fitta rete di contatti, il cosiddetto sistema Kohl, un network di amicizie nei gangli vitali del potere che nessun altro politico riuscirà ad emulare. Quando si parla del sistema Kohl, si pensa di solito ai moltissimi legami che ho allacciato in quel periodo. Gli industriali chiamano questo tipo di sistemi reti di solidarietà, poiché sono simili a ciò che accade a chi lavora in una grande azienda quando un dirigente scala una posizione dopo l'altra fino a diventare, ad esempio, presidente o direttore generale, come si diceva un tempo. In questo caso, i benefici della scalata ricadono anche su chi sta sotto di lui, che sarà a sua volta promosso. Ma di lì a poco, gli stretti legami intessuti da Cole si rivelano un boomerang, soprattutto nei suoi rapporti con i colleghi di partito più liberali, come Heiner Geisler, Rita Süssmuth e Norbert Blum. Giugno 1973, Helmut Kohl viene nominato presidente nazionale della CDU. Nel volgere di poche ore, la sua sede di lavoro si sposta di 170 chilometri, passando da Mainz, capitale della Renania-Palatinato, al Bundestag di Bonn. Il tempo da dedicare alla famiglia diventa sempre meno. In casa si comincia a parlare di separazione. Fu un periodo di enorme tensione per la mia famiglia. In quello che sarebbe stato uno dei nostri pochissimi litigi in tanti anni di matrimonio, mia moglie Anne Lore sosteneva, a ragione, che se fossi stato eletto presidente del partito, la mia carriera politica non si sarebbe più fermata, mentre noi, e soprattutto io, avremmo dovuto fare di tutto per restare a Mainz. Ma questa possibilità è fuori discussione. Per la carriera politica di Kohl c'è futuro soltanto a Bonn. Ero in una situazione in cui quasi tutti si aspettavano che sarei rimasto fedele alla parola data. Se mi fossi tirato indietro sarebbe stato come disertare il partito. Era questa la mia giustificazione. È il 1973. Helmut Kohl ha 43 anni, ha centrato il suo obiettivo, è presidente nazionale del Partito Cristiano Democratico Tedesco. D'ora in poi si muoverà sul palcoscenico politico nazionale a Bonn, capitale della Germania federale. Noi continuiamo il racconto dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati con Marina Milone e Giovanni Minoli all'appuntamento di oggi con la storia dell'ascesa e dei successi di Helmut Kohl, il cancelliere tedesco che ha guidato l'unificazione della Germania. Per arrivare a quel successo, Helmut Kohl è partito dalla Renania, il Land tedesco che confina con la Francia. Poi nel 73 il suo partito, la CDU, lo nomina presidente del partito e l'inizio della carriera nazionale, non senza ostacoli, soprattutto da parte della stampa di sinistra che lo definisce un gigante goffo venuto dalla provincia. La mia prima intervista per Der Spiegel fu usata dal giornale come una clava. Non mi riferisco all'intervista in sé, quella si svolse in modo corretto, ma a tutti gli articoli diffamatori che seguirono. Poco tempo dopo incontrai Augstein, l'editore, a una festa di Hans Dietrich Genscher. Appena mi vide mi chiese di fare un'altra intervista, ma questa volta gli risposi: signor Augstein, non in questa vita. I governi tedeschi sono una miscela complessa di coalizioni tra partiti. In questo caso la situazione è ancora più complicata. I cristiano-democratici, infatti, non si candidano in Baviera, il land più importante della Germania, dove sono rappresentati da un organismo affiliato denominato Unione Cristiano-Socialista. In circostanze normali, i due partiti dovrebbero lavorare insieme. Il primo ministro cristiano-socialista si rivela invece uno dei più acerrimi rivali di Kohl. Ex ministro della difesa e delle finanze, Franz Josef Strauss vanta una notevole esperienza e un ego ancor più smisurato. Eravamo completamente diversi. A Franz Josef Strauss piaceva fare la parte dell'uomo forte, ma in realtà non lo era affatto. Per lui, uno come me, era, per usare un'espressione un po' colorita, una femminuccia. Di fronte all'accanita opposizione di Strauss, pronto a censurare ogni sua mossa, le possibilità di trionfo per Kohl si assottigliano. L'impresa di riportare la CDU al potere, del resto, è resa ancora più difficile dal ruolo dominante delle potenze liberali e socialiste sullo sfondo della Guerra Fredda. Nel 1976, nonostante la profonda contrarietà di Strauss, Kohl si candida alla carica di cancelliere, ma viene sconfitto. Alle elezioni del 1980 è la volta di Strauss. La sagacia di Kohl gli suggerisce di non opporsi alla candidatura del rivale, ma da autentico uomo di partito di sostenerne la campagna. Ma la nuova sconfitta della CDU, la seconda per ordine di gravità nella storia del partito, evidenzia l'inadeguatezza di Strauss come candidato. Kohl sa che l'unica strada per tornare al potere è formare una nuova coalizione. Individua il partner ideale nel Partito Liberal Democratico e presenta una proposta al suo leader, Hans Dietrich Genscher. Dissi a Genscher: se decidi di fare il grande salto, stai sicuro che troverai una rete pronta a sostenerti. Con questa frase intendevo dire che io e il mio partito eravamo pronti a discutere con lui la creazione di un nuovo governo. Glielo dissi in modo chiaro, senza mezzi termini. La strategia di Kohl dà i suoi frutti. Nel 1982, con un clamoroso colpo di scena, il Partito Liberal Democratico sale al potere. Nasce un governo con la CDU e la CSU. All'età di 52 anni, Kohl realizza il suo sogno. È il nuovo cancelliere della Germania Ovest. Ma gli inizi del suo mandato sono tutt'altro che incoraggianti. Fautore di una politica di recupero dei valori tradizionali tedeschi, la famiglia, i bambini, la solidarietà, il patriottismo, l'industria, egli viene percepito in Germania come una figura scialba e obsoleta. Del resto, la politica interna sarà sempre il suo punto debole. Sin dal secondo dopoguerra i partiti di centrodestra hanno suscitato nell'opinione pubblica tedesca reazioni contrastanti, spesso particolarmente avverse. E in Germania Ovest, d'altra parte, è molto forte il ruolo del movimento pacifista. Così, quando la NATO chiede a Bonn di installare dei missili nucleari per contrastare la minaccia dell'Unione Sovietica, Kohl si trova a dover prendere una posizione netta e la sua decisione rompe tutti gli equilibri della guerra fredda. Il movimento pacifista si oppone con veemenza. Centinaia di migliaia di manifestanti sfilano lungo le strade per esprimere il loro dissenso e minacciano di paralizzare la Germania Ovest. Una condizione inevitabile per il buon esito di questi negoziati è la nostra ferma risolutezza di dislocare i soldati se questo si rivelerà necessario. Kohl decide di sfidare i pacifisti. È una strategia vincente che lo porta al trionfo nelle elezioni successive. La chiara presa di posizione a favore dell'alleanza con l'Europa occidentale e gli Stati Uniti è un forte segnale per il Cremlino. È anche un passo decisivo per avviare un cambio di mentalità nell'Unione Sovietica e un progressivo disgelo nella Guerra Fredda. La politica estera, del resto, è il vero cavallo di battaglia di Kohl. Il suo sogno è sempre lo stesso: riunificare la Germania e creare un'Europa unita, libera dalla guerra. E Kohl è consapevole del potere dei gesti e delle immagini simboliche. Sfidando l'opposizione del partito, invita Erich Honecker, leader della Germania Est, per la prima visita di Stato ufficiale. Nel 1984 tende la mano anche alla Francia, incontrando François Mitterrand al cimitero militare vicino a Verdun, dando luogo a una riconciliazione profondamente sentita. Per i francesi, Verdun non è un cimitero militare come gli altri, ma un luogo sacro, nel vero senso della parola. Un luogo come Verdun ha un significato enorme per loro. Ecco perché ci siamo incontrati lì. Ed ecco perché quella stretta di mano ha un significato simbolico molto profondo. A volte, però, Kohl pecca di eccessiva ambizione, come dimostra il tragico fallimento del suo tentativo di avvicinamento all'Unione Sovietica. In un'intervista di quegli anni, Kohl paragona Mikhail Gorbachev, il nuovo segretario generale del Partito Comunista Sovietico, a Joseph Goebbels, ministro della propaganda negli anni del nazismo. Solo un frenetico lavoro diplomatico dei suoi ministri, tra cui lo stesso Genscher, riesce a ricucire il rapporto con Gorbachev. Se il tentativo fosse fallito, la riunificazione sarebbe stata molto più difficile. Malgrado queste gaffe, Kohl è tutt'altro che uno sprovveduto. Anche il suo comportamento fuori dalle righe è spesso frutto di un preciso calcolo. Le spiacevoli sfumature del sistema Kohl, fatte di tangenti e corruzione, ne sono un esempio. Il 1986 è segnato da uno scandalo di tangenti a tutti i livelli del sistema politico. Da quasi 10 anni il gruppo industriale Flick versa milioni di marchi ai partiti politici tedeschi. Kohl viene convocato da una commissione d'inchiesta per chiarire come mai il suo nome compaia accanto a versamenti fino a 565.000 marchi. Nella stanza c'era un'atmosfera incredibile. I giornalisti erano seduti intorno a me. Sotto il fuoco di fila delle domande, Kohl sembra cadere in contraddizione. Risposi a una delle domande in modo senza dubbio azzardato. Ma non era mia intenzione ingannare la commissione. Non diedi una risposta adeguata solo perché non avevo capito una parte della domanda. A causa di questo mio errore, cercarono di rovesciare il mio governo. E il commento di Geisler non fece che aggravare la situazione. Kohl esce quasi indenne dallo scandalo. Almeno per il momento la sua leadership non è in discussione. Kohl ne approfitta per introdurre una nuova legge studiata per far sì che la situazione non si ripeta. Per Kohl, infatti, il partito ha la precedenza su tutto. Lo dimostra il fatto che per l'intera durata del suo mandato non abbandonerà mai l'incarico di presidente del partito. La partecipazione diretta del cancelliere a ogni attività politica fa sì che ben poco sfugga al sistema Kohl. Un sistema che si fonda su un circolo ristretto di contatti personali sia con gli altri esponenti del partito che nelle relazioni con gli altri capi di Stato. Quando si tratta di rispondere personalmente al telefono, Kohl non si tira mai indietro. 1989 per l'Europa è un anno fondamentale. Da 7 anni Kohl è cancelliere tedesco e da 16 presidente del partito. La situazione comincia a spazientire alcuni suoi colleghi. Intanto la cortina di ferro trema sotto i colpi della perestroica di Gorbaciov. Il congresso nazionale della CDU di Brema è l'occasione per una resa dei conti. E lì fu battaglia. In quei pochi giorni ci furono alcuni degli screzi più duri che io ricordi. Dentro di me sapevo che la situazione non avrebbe fatto che peggiorare. Il capogruppo Einar Geisler è stato per anni uno dei migliori alleati di Kohl, ma il cancelliere, forse deluso dai suoi commenti sulla perdita di coscienza durante il caso Flick, decide di licenziarlo a pochi giorni dal congresso per presunte simpatie di sinistra. Era un lunedì dopo le vacanze. Geisler mi si avvicinò e aprì un fascicolo con dei documenti. Gli chiesi che cosa volesse da me e lui mi rispose che dovevamo parlare di come organizzare il congresso del partito. Lo guardai e gli chiesi: di cos'è che vuoi parlare? E lui mi rispose: del congresso, no? Allora gli dissi: puoi rimettere a posto i documenti. Il congresso non lo organizzi tu, perché non sarai più tu il segretario generale del partito. Rimase come pietrificato e mi disse che non potevo fargli questo, ma io gli risposi: ti avevo avvertito. Dunque nel 1989 nella Germania Ovest la situazione politica interna si incrocia con quella internazionale. Kohl, appena cacciato dalla segreteria della CDU, il suo ex alleato Einar Geisler, e sa che anche per questo una parte del partito potrebbe mettersi contro di lui. Ma i fatti che cambieranno la storia d'Europa si nascondono a qualche centinaia di chilometri da Brema, al di là della cortina di ferro. Mix 24, la storia. È il settembre dell'89, nel congresso della CDU, il Partito Cristiano Democratico Tedesco, Helmut Kohl, sta per affrontare una dura battaglia con gli altri leader del partito. In ballo ci sono il suo futuro politico personale e quello del partito di maggioranza in Germania. Prima della resa dei conti al congresso, Kohl torna a casa per un giro di telefonate e per contare i suoi alleati. Ma pronto ad attenderlo c'è un problema ben più grave e urgente. Alcuni giorni dopo mi trovavo solo a casa. Era già notte e mia moglie era uscita. Cominciai ad avvertire dolori lancinanti come mai mi era successo prima, anche se per la verità ho una certa resistenza al dolore. Mi sentivo girare la testa. Mi trasportarono all'ospedale, dove mi diagnosticarono una colica renale causata da calcoli. Kohl è affetto da una patologia della prostata che necessita di un intervento chirurgico immediato, ma non può permettersi di rischiare che una ribellione interna al partito lo estrometta dal potere. Per questo motivo rifiuta di farsi operare. Il medico mi disse: ok, ma mi devi promettere che tornerai immediatamente il giorno dopo il congresso per farti operare. Glielo promisi. Il giorno dopo rimasi seduto per 17 ore davanti alle telecamere e alla fine stavo quasi per svenire. Brema, 11 settembre 1989. Kohl sembra padrone di sé, ma dietro le quinte un medico è pronto a intervenire. La popolarità del cancelliere in Germania Ovest è in calo e il partito teme che Kohl non sia in grado di vincere le prossime elezioni. Per la CDU significherebbe perdere il potere. Rita Süssmuth, ministro per la famiglia e la salute, è una dei molti politici liberali che spingono per la sostituzione di Kohl. Uno dei candidati era Einar Geisler. Un altro era il primo ministro del Baden-Württemberg. C'erano poi altri 4 o 5 esponenti del partito che ci stavano pensando. Ma in quel momento non avevamo un risultato definitivo e non c'era nessuno che si fosse fatto avanti per candidarsi esplicitamente. Non avevamo quindi ancora nessun argomento da presentare al cancelliere. Norbert Blum non era venuto al congresso di Brema, ma anche lui era con noi. Non voglio ripercorrere adesso tutti i particolari della nostra iniziativa, ma credo sia importante comprendere che il nostro obiettivo era quello di far uscire il partito dalla situazione di stallo in cui si trovava. Non ho mai capito quali fossero gli argomenti di Norbert Blum. Anzi, non so neanche se ne avesse. Ma gli eventi della politica europea salveranno il posto di Kohl. Miklós Németh, primo ministro dell'Ungheria, intende aprire le frontiere per far tornare in patria i tedeschi dell'Est. Kohl conosce bene il potenziale mediatico di questa iniziativa. Sapevo da tempo che il governo ungherese avrebbe annunciato l'apertura delle frontiere la sera della domenica successiva, quando io sarei stato impegnato nella conferenza stampa del congresso. Ma non ci avevo riflettuto bene fino al venerdì o al sabato precedente. Credo che l'annuncio fosse previsto per le 8 di sera, mentre la nostra conferenza doveva iniziare alle 19. Così chiamai Nemeth e gli dissi: «Senta, Nemeth, faccia l'annuncio alle 19. Non posso accogliere i giornalisti alle 7 di sera e attendere il suo annuncio fino alle 8. Mi prenderebbero per scemo». Nemeth accetta la richiesta di Cole e il cancelliere ne approfitta per distogliere l'attenzione dai contrasti interni e lasciare spazio a un annuncio storico che avrebbe sancito l'inizio della fine del blocco orientale. Quella notte, quando migliaia di tedeschi dell'est abbandonano l'Ungheria, la possibilità di una riunificazione della Germania diventa tangibile. All'interno del partito, gli oppositori perdono fiducia e abbandonano ogni velleità. Ma questa volta Kohl ha accusato il colpo. Una persona con il mio carattere non ammette subito l'errore e ha difficoltà ad accettarlo anche quando gli altri glielo fanno presente. Ho sottovalutato la situazione e credo di essermi sbagliato. Mia moglie invece aveva capito come stavano le cose sin dall'inizio. Cole è riuscito a capovolgere l'esito della conferenza e una delle sue più grandi ambizioni, quella di riunire la Germania sotto un'unica bandiera e un'unica nazione, sta quasi per realizzarsi. Ma per molti europei la prospettiva di una Germania unita è motivo di allarme. Nell'autunno 1989 accade l'inimmaginabile. Senza nessun preavviso cade il muro di Berlino. Per l'Europa e per Helmut Kohl è il momento della svolta. Kohl reagisce con prontezza e in gran segreto. Nel giro di 3 settimane sorprende tutti rivelando il suo piano in 10 punti per la riunificazione della Germania. Il nostro intento è dunque quello di istituire una confederazione fra i due stati della Germania con l'obiettivo di creare uno stato tedesco unificato. Nella Germania dell'Est, ormai prossima al collasso economico, l'entusiasmo è alle stelle. L'ex ministro tedesco orientale Georg Gysi ricorda bene l'atmosfera di quei giorni. Kohl promise solidità economica, ricchezza e scenari rosei. Forse non se ne rendeva conto del tutto, ma questo approccio era pienamente in linea con la mentalità della DDR. Eravamo abituati a non essere padroni del nostro destino, a lasciare che altri lo gestissero per noi. In quel momento stavamo attraversando una fase di anarchia, almeno per gli standard tedeschi, dato che forse in altri paesi la stessa situazione sarebbe stata ritenuta normale. Ed ecco che ora veniva un uomo a dirci: «Penserò a tutto io. Voi non dovete fare nessuno sforzo, dovete solo votare per me e io mi occuperò del resto». Era un messaggio molto rassicurante. La nuova situazione genera un clima di nervosismo a livello internazionale. Mentre gli Stati Uniti si adeguano, lo spettro di una rinnovata superpotenza tedesca è accolto con contrarietà in gran parte dell'Europa, soprattutto dal primo ministro inglese Margaret Thatcher. La Thatcher era una persona molto onesta. Nel 1989, al termine di un dibattito notturno a Strasburgo, disse tra sé e sé, pensando che non la stessi ascoltando: «Li abbiamo battuti 2 volte e adesso ci riprovano». Era un'osservazione del tutto comprensibile. Dicembre 1989, la fine di un anno di cambiamenti epocali per l'Europa dell'Est. Al vertice europeo, Kohl cerca di superare le resistenze, determinato a proseguire sul cammino della riunificazione. Ma è stato davvero lui l'ago della bilancia, o la Germania si sarebbe comunque riunificata dopo la caduta della cortina di ferro? Mikhail Gorbaciov ascolta Kohl con rispetto e sancisce il ritorno della Germania dell'Est all'Occidente. Kohl realizza il sogno di milioni di tedeschi. Oggi è una giornata di profonda commozione. Per me, e spero anche per voi, è un momento felice. Festeggiamo insieme la Germania. Ma la strada verso la riunificazione si rivela tutt'altro che agevole e contribuisce alla caduta definitiva di Kohl. 2 giorni dopo, i due paesi sono di nuovo riuniti. Il presidente Richard von Weizsäcker annuncia i nuovi doveri della Germania. Essere a servizio della pace nel mondo, nel contesto di un'Europa unita. L'atto successivo sono le prime elezioni politiche unificate. Kohl vince con un'ampia maggioranza, promettendo parità di opportunità e salari. Ma la sua scarsa dimestichezza con l'economia lo porta a sottovalutare l'enorme dispendio di soldi e di tempo necessario per risollevare la Germania. Due anni più tardi, nel 1991, i segnali di cambiamento nell'ex Germania Est tardano a manifestarsi, mentre cresce la disillusione nei confronti della nuova Germania e soprattutto di Kohl. Durante una visita del cancelliere a Halle, alcuni manifestanti esprimono a Kohl il loro punto di vista sul sogno della sua vita. Vorrei precisare che non si trattava di un comizio politico, ma solo di una visita al municipio di Halle, dove c'erano 300 o 400 persone ad attendermi cordialmente. Nella folla però c'era un idiota che aveva portato con sé delle uova. La gente non sa quanto faccia male ricevere un uovo in testa. La polizia cercava di trattenermi, ma io ero fuori di me. Mi scagliai contro l'uomo che mi aveva lanciato l'uovo. Se non ci fosse stata quella barriera, lo avrei picchiato. Su questo non c'è dubbio. Malgrado le contestazioni interne, Kohl può sempre ripiegare sui suoi buoni rapporti con l'estero. George Bush padre, suo amico allora come oggi, è in carica da 4 anni quando viene sconfitto dal liberale Bill Clinton. Il primo incontro tra il nuovo presidente degli Stati Uniti e il cancelliere tedesco si rivela difficile, ma Kohl sa che ogni alleato è prezioso e mette in campo tutta l'affabile familiarità di cui è capace, un segno distintivo di tutta la sua carriera. Le storie di Kohl, i suoi aneddoti, la sua disponibilità affascinano il nuovo presidente. Clinton ne ricava un'ottima impressione. Non sarebbe possibile scrivere la storia del XX secolo senza includere un capitolo su Helmut Kohl. Sotto molti aspetti, la storia della sua vita riflette quella della Germania e dell'Europa, segnando il passaggio dalle profonde divisioni e dai conflitti della Seconda Guerra Mondiale al periodo di grande unità e prosperità. Kohl non è stato soltanto un testimone di questo cambiamento epocale, ma con le sue incomparabili doti di intuito, coraggio e forza d'animo, ne è stato la guida. Dopo quell'incontro, tra me e Clinton è nata un'amicizia davvero intensa. L'anno dopo, i Clinton si recano in visita in Germania e sono persino invitati a Oggersheim. Negli anni successivi si fanno intanto sempre più rade le apparizioni pubbliche di Anne Lore, debilitata da una tragica malattia. Ma nel 1993 la vita sembrava riservare ben altre prospettive. Nella visione di Kohl, l'unificazione della Germania è da sempre legata a quella dell'Europa, come due facce della stessa medaglia. Egli stesso guarda con diffidenza e timore all'ascesa di una superpotenza tedesca. La sua massima aspirazione è contenere l'espansione del nuovo Stato nel cuore di un'Europa federale. L'obiettivo principale di Kohl è impedire lo scoppio di una nuova guerra in Europa. Kohl ricorda che l'ultimo conflitto gli ha portato via il fratello e l'ha esposto al lato più tragico della vita. Ricordo un ragazzo del supporto antiaereo al quale fu appeso al collo un cartello su cui c'era scritto «Sono un traditore della patria», probabilmente perché era fuggito. Fu subito processato da una corte marziale nazista. Immagini come queste non svaniscono mai, anzi, con il tempo diventano quasi più nitide. Quella che vi stiamo raccontando è la vita del cancelliere tedesco Helmut Kohl, leader indiscusso nel processo di unificazione europea. Torniamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Una Germania unita, ben inserita in un'Europa federata con una moneta comune. Questa è stata la visione di Kohl per tutta la sua carriera politica. E nel 93 sta prendendo forma nel Trattato di Maastricht anche grazie ai rapporti con i principali leader europei, rapporti che Kohl ha saputo coltivare negli anni, a partire proprio dalla Francia, nemica nella Seconda Guerra Mondiale. L'amicizia tra Kohl e Mitterrand e il loro sostegno al Trattato di Maastricht sono le premesse per la nascita dell'Unione Europea e per il progetto di una moneta unica. E la politica di Kohl contribuisce non poco a oltre mezzo secolo di pace e stabilità. Un aspetto per me importante è questo. Nessun ragazzo tedesco, francese o italiano dovrà più partecipare a una guerra europea. Non mi interessano i motivi. O meglio, sì, mi interessano, ma non sono così importanti. Ciò che conta è il risultato che abbiamo ottenuto, ed è un risultato che non può essere più cambiato. L'impatto di Kohl sulla storia europea è decisivo e i suoi successi straordinari. Ma dopo 12 anni al potere, il cancelliere comincia ad avvertire segni di stanchezza. Prima delle elezioni del 1994, Kohl avverte i suoi più stretti collaboratori che sta valutando la possibilità di ritirarsi. Avevo ottenuto abbastanza soddisfazioni. Dentro di me non mi sentivo esausto, ma semplicemente appagato. Del resto, fino ad allora, avevo avuto una vita molto stressante. Nel 1994 Cole vince di nuovo le elezioni, ma con un margine ristretto. È ormai un leader sul viale del tramonto, ma ha già designato il suo successore, uno dei suoi colleghi più stretti, Wolfgang Schauble, al quale è rimasto leale anche dopo il tentato omicidio che dal 1990 ha costretto Schauble su una sedia a rotelle. Schauble è l'instancabile braccio destro di Cole. Mentre il capo decide sulle questioni importanti, lui si occupa dei dettagli. Avevamo un rapporto molto stretto, perché eravamo quasi sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Lui era molto più giovane di me. Può sembrare esagerato affermare che tra noi ci fosse un rapporto quasi fraterno, ma non è un termine sbagliato. Alle elezioni del 1998, tuttavia, la lealtà viene messa da parte. Forse accecato dal desiderio di vedere finalmente realizzata l'introduzione dell'euro, il cancelliere non si dimette e non lascia il posto a Schauble. Non c'è dubbio che Schauble non abbia compreso la mia decisione e che di conseguenza il nostro rapporto si sia logorato, forse più di quanto pensassi all'epoca. Oggi ne sono consapevole. La sconfitta di Cole alle elezioni del 1998 segna la fine della più lunga leadership del dopoguerra europeo. Oggi, dopo 16 anni, l'era Cole è giunta al termine. Ma quello di Helmut Kohl non è un addio glorioso. La salute dell'economia tedesca ha risentito pesantemente della riunificazione. Il tasso di disoccupazione è elevato e l'ex cancelliere è atteso da un altro scandalo finanziario. Tra il 1993 e il 1998 ho accettato donazioni per una cifra pari a circa 300.000 marchi l'anno non dichiarata per volere dei donatori. Ancora una volta vengono alla luce conti nascosti e donazioni non dichiarate. Cole ammette di aver violato la legge sul finanziamento pubblico da lui stesso varata come cancelliere. Per un politico del suo calibro è un triste lascito. Non intendo nominare i donatori perché ho promesso che non lo avrei fatto. Per la CDU è un nuovo scandalo, ma questa volta il partito non è più al potere. Mentre cresce la pressione per conoscere i nomi dei donatori, la CDU teme ripercussioni sulla sua reputazione e sulle proprie chance elettorali. Il partito preme perché Kohl rompa il silenzio. Il presidente Wolfgang Schauble ha chiesto a Helmut Kohl di rivelare i nomi dei donatori. Kohl si trova a un bivio. Alla fine la sua decisione non farà felici né il partito né l'opinione pubblica tedesca. Ancora oggi Helmut Kohl si rifiuta di rivelare l'origine di quei finanziamenti. Ho rivelato le somme, ho ammesso i fatti. Credo che possa bastare. Nel dicembre 1999 il segretario generale della CDU ha un nuovo volto. È quello di Angela Merkel, destinata negli anni successivi a diventare cancelliere di Germania e probabilmente la donna più potente del mondo. Il nuovo segretario afferma pubblicamente che il partito deve imparare a reggersi sulle proprie forze e a fare a meno di Helmut Kohl. Un suo articolo pubblicato sul Frankfurter Zeitung suscita un forte clamore. La signora Merkel deve capire da sola quali saranno le conseguenze del suo articolo. Non c'è nessun bisogno che io lo commenti, né ora né in futuro. Per me l'argomento è chiuso. I motivi della mia critica erano evidenti. Credo fosse importante offrire una nuova prospettiva alla CDU e classificare il ruolo politico di Helmut Kohl. Era evidente già allora che i suoi successi storici avevano di gran lunga oscurato i suoi errori, ma al tempo stesso era necessario mettere quegli errori nero su bianco. La spaccatura appare totale. La CDU intende archiviare definitivamente l'era Kohl. L'ultima umiliazione per l'ex cancelliere è la sospensione dalla carica di presidente onorario. Indignato di fronte al tradimento, Kohl lascia definitivamente il partito. Un nuovo scandalo è però alle porte. Anche il successore di Kohl nel ruolo di presidente, la nuova speranza per il futuro del partito, commette un errore fatale. Viene alla luce una donazione segreta fatta a Wolfgang Schauble dal commerciante di armi canadese Karl-Heinz Schreiber. Schauble ha una sola possibilità. Il miglior modo per mettermi al servizio di questo nuovo inizio è quello di non ricandidarmi al posto di presidente. Cole nega ogni coinvolgimento nella caduta di Schauble, dai sospetti reciproci alla rottura di un'amicizia. Ci sono dei proverbi tedeschi ripetuti dalle madri ai bambini che da piccoli ascoltiamo senza comprendere, come quello che dice: è sempre la mano che cura la prima ad essere morsa. Ebbene, la verità di questo detto io l'ho sperimentata sulla mia pelle. Le persone che credevo d'aver aiutato più di altre sono quelle che alla prima occasione mi hanno tradito o mi hanno trattato con disprezzo. Malgrado la nomina a cittadino onorario d'Europa per il suo impegno in favore dell'unificazione, Cole subisce l'ennesima onta. Il suo nome è infangato e l'ex cancelliere, Hannelore e i loro figli sono additati come il male assoluto. Per Hannelore Cole, tuttavia, le sofferenze sono solo all'inizio. Alla moglie dell'ex cancelliere, infatti, viene diagnosticata una grave allergia alla luce che la costringe ad annullare tutti i suoi impegni pubblici. Passerà il resto della sua vita praticamente al buio. Il 5 luglio, Ecky Zeber, autista e tuttofare della famiglia, scopre perché Hannelore voleva che il marito restasse lontano da casa. Ho fatto alcuni lavoretti nella casa e poi sono uscito in giardino, da dove ho visto che gli avvolgibili erano alzati. La signora Hannelore non poteva tollerare la luce del sole. Così ho chiamato di nuovo mia moglie e le ho chiesto di sbrigarsi, perché ero sicuro che fosse successo qualcosa di grave. Mia moglie entrò nella camera e trovò la signora Cole morta nel letto. È stata una sua decisione e io la rispetto e la accetto. Aveva deciso lei di non morire in un centro di terapia intensiva. Nella sua lettera di addio ha lasciato scritto: non ho nessuna possibilità, nemmeno una possibilità. E lo so, questa è una decisione tutta mia. La solidarietà per Cole e la sua famiglia vince tutte le divisioni tra i partiti e le frontiere nazionali. Per l'ex cancelliere, dal canto suo, la tragedia non arriva inaspettata. Ne avevamo parlato. Sapevo che ci stava pensando. Non intendo aggiungere altro.